9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana con questo 25 luglio. Qualunque novità arrivi nel corso della trasmissione sulla notizia che da una mezz'ora è stata battuta dalle agenzie, naturalmente ve ne informeremo sul 41esimo caduto italiano nella missione in Afghanistan e sui particolari dell'attentato che ha portato alla sua morte e quella al ferimento di altri militari. L'argomento della giornata, come vi ho anticipato invece nel lancio, è un argomento di quelli dedicati, per così dire. Non avete trovato fino a questo momento titoli, approfondimenti, avete trovato un allarme per i più attenti tra voi, quelli che leggono il domenicale del Sole 24 Ore, che da qualche settimana è tornato al suo formato grande, come quello del quotidiano a cui esce a corredo, e che è da sempre uno dei punti di forza del Sole 24 Ore nella edizione domenicale, con approfondimenti culturali e soprattutto con una linea di grande attenzione, lo abbiamo già detto diverse volte, ai temi della cultura scientifica nel nostro paese per superare i limiti di un'impostazione troppo umanistica e idealistica. Ebbene, domenica, ieri, è stato lanciato un appello in particolare da Armando Massarenti, che è il responsabile del domenicale del Sole 24 Ore, che ha acceso un faro sul quale oggi vogliamo, grazie a lui che è in studio con noi e che ringrazio, buongiorno Armando. Buongiorno. Voglio accendere un faro insieme a voi tutti, perché si tratta di un tema che è di quelli su cui si misura davvero la civiltà di un paese. Perché riguarda i rapporti tra la politica e la comunità scientifica. Noi siamo abituati ad occuparci spesso polemicamente del ruolo che la politica ha in questi anni rispetto alla ricerca, all'innovazione, alla promozione del merito nell'ambito della ricerca del sistema della formazione italiano, a proposito soprattutto degli stanziamenti. Vi sono reiterate, approfondite, aspre polemiche intorno alle risorse che il nostro paese dedica alla ricerca, perché complessivamente noi siamo lontani ancora dalle medie europee. Ma qui il punto è un altro, perché essere messi sotto il microscopio, è il caso di dirlo, sono le modalità attraverso le quali la politica deve scegliere i capi, i responsabili di fondamentali istituzioni che presiedono alla ricerca scientifica del nostro paese. Già, perché è in corso la procedura attraverso la quale il ministro Gelmini nominerà il nuovo vertice del CNR, quindi l'organo fondamentale che promuove e sviluppa ricerca nel nostro paese, che la valuta, la più ampia rete di istituti e dipartimenti per tutte le diverse discipline della ricerca scientifica. A sua volta, recentemente finito nel fuoco di polemiche per gli stanziamenti, per i criteri delle nomine, di gestione del personale, dei ricercatori, del personale amministrativo. Ma qui la questione è, poiché è in corso la procedura di nomina del nuovo presidente e del nuovo vertice del CNR, giustamente Massarenti ha detto: beh, innanzitutto registriamo che nella comunità scientifica c'è una preoccupazione. C'è una preoccupazione perché innanzitutto di lì bisogna cominciare che la politica faccia scelte precise, dove il merito, la competenza siano l'unico indiscusso titolo, al di là di ogni criterio di spoil system, di appartenenza, aderenza, vicinanza, consonanza, cognazione e affiliazione, direbbe Totò. Ecco, e quindi primo bisogna premere perché la politica capisca che in questi delicati giorni, prima che arrivi la nomina, faccia secondo questo criterio. Secondo, bisognerebbe però anche porre la questione di saperne di più, perché ovviamente a presidio della trasparenza e del merito che cosa c'è? C'è il fatto della pubblicità delle procedure che vengono seguite. Oltretutto la nomina del presidente e dei due componenti del CDA, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, avviene contestualmente a quella di un bando generale che è uscito all'inizio, che è uscito a maggio, è stato pubblicato sul sito del Ministero, in cui contestualmente a questi tre componenti, quindi al presidente del CNR, c'è una selezione per la nomina del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, per la nomina di due componenti del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per la nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, anche qui tre componenti il Presidente, per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, anche qua il Presidente e due componenti del CDA, per l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Presidente e un componente del CDA, per la Stazione Zoologica Anton Dorn, nomina del Presidente e di un componente del CDA, Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, anche qui Presidente, componente del CDA, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Presidente, componente del CDA, Istituto Nazionale di Alta Matematica, Museo Storico della Fisica, Centro di Studi di Ricerca Enrico Fermi, Istituto Italiano di Studi Germanici. Come vedete ci sono 12 grandi istituzioni della cultura e della ricerca scientifica italiana che hanno in corso procedure di valutazione per i presidenti e per membri del CDA. Ora, come funzionano a oggi questi criteri, queste nomine? C'è il Ministero, appunto, che pubblica sul suo sito un avviso di chiamata pubblica per la candidatura alla guida di tutti questi enti, ed è formata un comitato composto da 5 persone che valuta tutti i nominandi alla luce di coloro che mandano richieste aderendo a questo avviso di chiamata pubblica, che ritengono di avere quindi i titoli, e questi 5 membri del comitato faranno poi una scrematura che sottoporranno al ministro, e il ministro a quel punto deciderà. Fino a questo momento le procedure in Italia non prevedono né che il totale di coloro che partecipano, che rispondono a questo avviso di chiamata pubblica, diventino una lista pubblica che venga resa nota, e non prevedono che i lavori della cinquina di coloro che scelgono poi dai partecipanti e arrivano a sottoporre le terne di designazione al ministro, che venga reso noto il criterio col quale si fa questa scrematura e tantomeno poi il criterio per la scelta finale. Ecco perché alla fine, secondo me, bisogna rendere grazie ad Armando Massarenti, al Domenicale del Sole 24 Ore, che ha sollevato il problema, perché consente a noi tutti di premere e di spiegare a tutti come sarebbe possibile fare un passo in avanti di trasparenza, perché la comunità scientifica italiana, a cominciare dai vertici dei suoi istituti, pratichi davvero quella filosofia del merito, dell'eccellenza, che giustamente poi chiediamo che applichi a tutti i livelli, per la scelta dei ricercatori, per la valutazione dei progetti di ricerca, per la dotazione delle scarse, peraltro risorse pubbliche nei diversi progetti. Ecco, spero di non aver detto troppe corbellerie tecniche nel presentarvi il problema. Mi rendo conto che vi può sembrare una questione tecnica, ma invece è una questione di grande rilievo, perché o la cultura è lontana dalle nomine politiche oppure diventa affare di parrocchia, di partito, e questo bisogna evitare. A parlarne con noi, oltre a Armando Massarenti, sono Gilberto Corbellini, che insegna storia della medicina e bioetica alla Sapienza di Roma. Grazie, professor Corbellini. No. Marco Cattaneo, che è direttore delle scienze. Buongiorno, Marco. Buongiorno, Oscar. E Giampiero Bracchi, che è presidente dell'AIFE, Associazione Italiana di Private Equity e Venture Capital, e che però, voglio dire, è stato nel sistema CNR a lungo con responsabilità di rilievo, perché poi ha avuto responsabilità di rilievo nel Politecnico, e quindi è un accademico e un ricercatore, e non solo parla a nome della finanza privata di Venture Capital, che del resto, proprio conoscendo dal di dentro i criteri di valutazione dei progetti, è in grado poi di affidare risorse private per finanziamento di imprese in fasi delicate, a cominciare dall'inizio della loro vita. Buongiorno e grazie al professor Giampiero Bracchi. Allora, Corbellini, dica lei meglio invece i rischi che corriamo, se davvero siamo anche in questo anomali nel nostro paese, oppure se si può sperare che anche le procedure vigenti diano all'attuale presidente del CNR, che è il professor Luciano Maiani, un fisico di comprovata eccellenza, un successore che sia alla sua altezza e non invece appartenente a qualche cognazione politica. Lei che pensa, professor Corbellini? Io penso che vi sia stata una regressione nel metodo di scelta del presidente del CNR, secondo, diciamo, questi criteri che sono stati adottati dal MIUR. In sostanza Maiani era stato scelto in un modo diverso, cioè era stato istituito un comitato, presso questo comitato era, diciamo, tra cui, di cui facevano parte, diciamo, delle persone di nazionale, qualcuno anche dall'estero. Questo comitato era stato istituito dal ministro Mussi nel precedente governo e aveva fatto un bando. A questo bando erano state presentate ugualmente, insomma, alcune delle domande, ma questi candidati, dopo una prima scrematura, venivano, diciamo, invitati a illustrare il loro programma e quello che avrebbero fatto al CNR. Tra l'altro teniamo conto che questo comitato si occupava solo del CNR, mentre qui abbiamo un comitato di 15 persone che devono scegliere, che devono indicare al ministro una rosa di 5 componenti per ogni presidenza, e all'interno di questi 5 componenti poi il ministro sceglie. Quindi già scelgono su una decina di enti, mandano una cinquantina di componenti all'interno del quale poi il ministro sceglie a sua discrezione. Il precedente comitato invece dava indicazioni e segnalava un nome che poi il ministro poteva anche rifiutare, come si fa anche negli Stati Uniti, anche in altri paesi dove vengono poi selezionati i dirigenti di prestigiosi istituti come gli NIH. Ma sostanzialmente il lavoro di questo comitato era un lavoro che si basava su una procedura di rigida e attenta valutazione delle competenze e del merito di coloro che si candidavano. Quindi qui siamo a un ritorno, a una politicizzazione, alla reintroduzione. Il caso della scelta di Maiani è stato un caso praticamente unico in Italia, insomma, di modalità di scelta di una, di un dirigente, di un presidente, di un importante istituto di ricerca come il CNR, di una modalità di scelta che imita le procedure internazionali che sostanzialmente attraverso la trasparenza e attraverso la pubblicizzazione dei criteri, attraverso la modalità attraverso cui questi criteri vengono applicati, garantisce la qualità finale del risultato. In questo caso appunto siamo a un ritorno, a una scelta che poi alla fine sarà una scelta non basata sul merito ma prevalentemente una scelta politica. Lei ne è proprio ragionevolmente certo, perché ne parla all'indicativo come di una cosa che si aspetta, come se già sapesse che proprio va così. No, io non mi aspetto, non è che mi aspetto, però io all'inizio di quest'anno insieme a una importante ricercatrice scienziata italiana, che tra l'altro ha fatto parte del comitato che aveva scelto poi alla fine Maiani, che è Elena Cattaneo, abbiamo scritto un articolo su Embo Report, che è una rivista dell'Organizzazione Europea di Biologia Molecolare, che si intitola Science Under Politics, cioè la scienza sotto, schiacciata dalla politica, e il sottotitolo è Un incubo italiano. Allora noi dal caso di Bella in poi abbiamo sistematicamente avuto episodi in cui le decisioni, le scelte che hanno riguardato importanti questioni di merito concernenti la scienza sono state fatte adottando criteri non di pertinenza dei fatti e delle modalità attraverso cui la scienza arriva a produrre i suoi risultati e a valutare la qualità degli scienziati, dei ricercatori, ma sono stati fatti sulla base di opportunità, di valutazioni, di considerazioni politiche, molto spesso manipolando, falsificando la scienza. Oltre al caso di Bella, ne vogliamo ricordare alcuni di questi esempi? Abbiamo il caso di Bella, abbiamo la legge 40 sulla fecondazione assistita. La legge 40 sulla fecondazione assistita non è un problema che si deve fare la fecondazione assistita, un paese può decidere di non farla, ma il problema è che non si può fare una legge sulla fecondazione assistita mettendo all'interno della legge delle procedure che sono di cattiva pratica clinica, cioè che in tutto il mondo non si fanno perché mettono a rischio la salute delle persone, e dicendo che queste invece sono procedure accettabili. Abbiamo tutta la politica sugli OGM, le decisioni politiche sugli OGM si basano sull'assunto che gli OGM siano dannosi per l'ambiente e pericolosi per la salute, ma non c'è una prova scientifica, una, che sia così. Ora, si può dire che gli OGM non ci piacciono perché danno fastidio alla nostra economia, è del tutto legittimo, ma giustificare delle scelte politiche falsificando e dicendo che la scienza ha dimostrato cose che non ha dimostrato è qualche cosa che danneggia i principi stessi, o che che mette in sostanza, che va contro i principi stessi della democrazia, che va contro i principi stessi del fatto che all'interno di una democrazia ci devono essere dei criteri trasparenti di valutazione, che si deve cercare di dire la verità, perché se non cerchiamo di dire la verità, per quanto complesso possa essere raggiungere delle dei risultati che siano garantiti, oggettivi, però il nostro sforzo deve essere questo, e la scienza, la cultura scientifica, diciamo, le modalità attraverso cui la scienza raggiunge i suoi risultati, è una delle conquiste della cultura, diciamo, della cognizione umana più vicine alla possibilità di arrivare a una verosimiglianza nelle nostre conoscenze, diciamo, nei dati che noi riusciamo a produrre, nelle conoscenze che riusciamo a produrre. E se poi le manipoliamo, se la politica le falsifica, guarda, io le dico anche una cosa, insomma, la prima legge che Jefferson introdusse a metà del Settecento, quando entrò nel congresso della Virginia, fu una legge che mirava a migliorare la qualità dell'istruzione dei cittadini americani, perché riteneva che senza migliorare la qualità di questa istruzione, senza fornire ai cittadini degli elementi che gli consentissero di usare i migliori strumenti per accertare come stanno le cose, e Jefferson riteneva che in questo processo la scienza fosse davanti ad altre procedure, cioè senza accertare questo la democrazia non sarebbe sopravvissuta. E io mi domando effettivamente se questo fenomeno di epidemia di politica c'è stato anche negli Stati Uniti, cioè il caso Bush ha portato Science nel 1981, se non ricordo male, a fare un editoriale durissimo intitolato proprio Un'epidemia di politica, in cui denunciava il fatto che l'amministrazione Bush manipolava i dati scientifici per giustificare delle scelte che erano delle scelte di natura politica legate a pregiudizi ideologici, che sono del tutto legittime, ma dovrebbero evitare di manipolare la scienza. È uscito recentemente un libro negli Stati Uniti che racconta la storia dei 15 anni vissuti dalla comunità scientifica statunitense nel campo della ricerca sulle staminali, come conseguenza del fatto che prima Clinton e poi Bush hanno vietato la ricerca sulle staminali embrionali, e poi Obama recentemente ha riaperto questa ricerca. Beh, è un libro che fa vedere tutti i danni che può produrre la politica per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di sviluppare un settore importante della ricerca, ma fortunatamente, tra l'altro, in quel paese esiste una società civile che utilizza varie strategie poi per aggirare questi divieti o queste modalità attraverso cui il governo limita la libertà di ricerca. Qui in Italia non abbiamo nemmeno questo, e quindi ci rimane solo la politicizzazione della scienza, cioè ci rimane solo l'epidemia di politica. La domanda che io faccio a Marco Cattaneo, che pure ha scritto ampiamente, il dottore delle scienze, su questo tema, su questo rischio nelle ultime settimane, è che però le procedure che ci hanno portato alla indicazione del professor Luciano Maiani, l'attuale presidente, alla testa del CNR, non è che ci abbiano impedito poi che il vicepresidente, lo dico con rispetto per lui naturalmente, il professor Roberto De Mattei, sia colui che poi ha scatenato recentemente polemiche, secondo me molto fondate, quando dopo lo tsunami e il terremoto in Giappone ha pronunciato dei giudizi che avvicinavano quell'evento, il sisma e lo tsunami, a una specie di vendetta di Dio sull'uomo peccatore, che insomma induce a qualche riflessione su quello che stava adesso dicendo Corbellini. Io rispetto la fede e l'impostazione della teodicea di ciascuno, magari mi sbaglio, ma non mi aspetterei dal vicepresidente CNR giudizi di questo tipo, che confondono un piano di totale rispetto delle convinzioni religiose di ciascuno e, ripeto, la teodicea, come si pesa l'intervento della presenza divina negli accadimenti della natura rispetto all'uomo, rispetto al vicepresidente CNR. Magari mi sbaglio io, ma forse qualche cosa anche nella procedura attuale mi fa pensare che non sia del tutto alieno da una composizione fatta a tavolino pesando meriti diversi da quelli del puro criterio del valore scientifico. No, sbaglio, Cattaneo? Non c'è assolutamente dubbio, Giannino. Per quanto mi riguarda, chiaramente il professor De Mattei può avere e ha, come tutti quanti noi, il diritto di avere la sua spiritualità, la sua religiosità, tutto ciò che a ognuno di noi è consentito nel privato, naturalmente. Non dimentichiamo che forse un paio d'anni fa il vicepresidente del CNR aveva iniziato, tra virgolette, le sue campagne antiscientifiche in qualche misura con un convegno tenutosi proprio al CNR, un convegno tipicamente anti-evoluzionista, in cui si diceva che sostanzialmente Darwin aveva fallito e che l'evoluzionismo era al lumicino, perché la scienza dimostrava che l'evoluzionismo non era esatto. questo nel centocinquantennale della pubblicazione dell'Origine delle Specie, nel bicentenario della nascita di Darwin, e non credo che ci sia un solo biologo su questa terra oggi come oggi che sarebbe disposto a sostenere le tesi che erano sostenute invece in quel convegno organizzato dal vicepresidente del CNR. Chiaramente le scelte della politica negli ultimi, vorrei dire 50 anni, ma limitiamoci almeno agli ultimi 20, sono state scelte che spesso e volentieri sono state completamente avulse da quello che era il merito scientifico. È chiaro che nel momento in cui abbiamo un componente del Consiglio di Amministrazione del CNR che sostiene, a torto o a ragione, a relativamente poca importanza, una tesi profondamente ortodossa dal punto di vista cristiano, come quella della impossibilità dell'evoluzione biologica, oppure che va parlando di, come dire, vendette divine o comunque di segnali, messaggi divini in fatto di tsunami e di terremoti, quello che normalmente una persona che si occupa di queste cose si chiede è come diavolo farà a prendere decisioni importanti sull'allocazione di fondi di ricerca in campo della biologia o nel campo delle scienze della terra. Ma al di là di questo, di questa specifica presenza, il punto è che uno spoil system ben fatto significa sì, senz'altro fare scelte che sono politicamente vicine a sé, ma probabilmente a parità di curricula. Se le scelte diventano invece privilegio di vicinanze politiche o di prossimità politiche a scapito di quelli che sono i curricula, evidentemente le cose funzionano in maniera non esattamente corretta. Io non vorrei ricordare che una delle scelte tremendamente trasparenti e straordinariamente chiare di Barack Obama è stata quella di prendere Stephen Chu al Dipartimento dell'Energia, quindi di fatto fare un ministro che era un fisico, un premio Nobel, e che da anni, dopo aver ricevuto il premio Nobel per la fisica, si occupava esattamente di quel tema, ovvero sia di energia. Queste sono scelte non solo trasparenti, sono scelte che, indipendentemente da quali poi possano essere le scelte di Chu in termini di energia per le strategie americane, sono scelte che evidentemente sono indiscutibili. Dopodiché gli errori li fanno anche i premi Nobel e li fanno anche i migliori, per carità, perché siamo tutti quanti esseri umani, però la garanzia di una persona che ha competenze in un determinato settore e che ha la capacità di tirar fuori alcuni dei nostri enti di ricerca da secche che sono tremende non da oggi, sarebbe una scelta assolutamente ammirevole. È evidente che il tipo di criterio che è stato adottato nel caso dei 12 enti vigilati dal MIUR è per il momento ancora poco chiaro, nel senso che sì, la cinquina degli esperti, per i quali peraltro ho massimo rispetto perché ci sono persone assolutamente con curriculum scientifici notevolissimi e che sanno... Però diciamo che non coprono tutte le materie per i nominandi nei 12 istituti, o no? Beh, questo sicuramente, insomma, io credo che per un istituto di studi germanici nessuno dei cinque, per quanto il professor Salamini sia persona che ha lavorato a lungo in Germania, ma probabilmente sa il tedesco e forse sapere il tedesco non è sufficiente a nominare il presidente di un istituto di studi germanici. Salamini in realtà si è occupato di tutt'altro nella vita e non di germanistica. Persino per l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, non ci sono specifiche competenze in materia nella cinquina delle persone che selezionano. Ma detto questo, in realtà fare una valutazione oggettiva del curriculum di un candidato in campo scientifico è possibile, la politica ci ha abituato a rendere tutto quanto relativo. In realtà i curricula nella scienza sono valutabili con una certa obiettività. Certo. Evidentemente però quello che mi piacerebbe sapere è quali sono le cinquine che probabilmente i cinque nomi, o forse meno in alcuni casi, perché che si portano all'attenzione del ministro. Che si porteranno all'attenzione del ministro, ovvero sia se saranno tutti quanti nomi dello stesso livello e su quali basi il ministro farà una scelta. Appunto. A me piacerebbe saperlo, anche perché queste scelte sono sì strategiche per la ricerca, ma essere strategici per la ricerca significa essere strategici per tutto quanto, esatto, il futuro e lo sviluppo del paese. Insomma, se posso fare una considerazione finale, perché poi andiamo in pubblicità, e quindi saluto e ringrazio Cattaneo e Corbellini, e torniamo in studio tra poco invece con Gianpiero Bracchi e con Armando Massarenti per tenere le fila di questo. tanto più noi sapremo pubblicamente su ogni singolo passo di questa procedura di nomina per i 12 istituti apicali della ricerca italiana, per cui ci sono nomine, tanto più daremo un esempio all'intero sistema della formazione, non solo della ricerca ma della formazione del sistema universitario italiano, a evitare quello di cui spesso ci siamo dovuti occupare. Quando molti ascoltatori, mentre parlava il professor Corbellini che insegna la Sapienza, evocata la Sapienza, hanno iniziato a martellarci con i messaggi al 349-238-6666 dicendo: voi parlate però di criteri di merito e di trasparenza, ma le nomine dei parenti e degli amici alla Sapienza, di cui abbiamo appreso fino alla sera prima che entrava in vigore la Gelmini, ve le siete dimenticati? Qual è l'esempio che viene praticato a tutti i livelli? Ecco, quello, tanto più si combatte la nomina dei parenti nelle università, qualunque tipo di insegnamento, cattedra e responsabilità tecnico-amministrativa, quanto più fin dall'inizio, fin dalla cima del sistema della ricerca, la politica capisce che deve astenersi e dare procedure trasparenti e ispirate alla peer review, e cioè al criterio oggettivo di valutazione dei titoli, che si fa attraverso un confronto su ciò che ciascun ricercatore, scienziato, eccetera, scrive, e nella valutazione che viene fatta dalla comunità dei pari e dei superiori. Questo è il criterio oggettivo che alla politica non può che mancare, mentre invece nella comunità della ricerca è affermato e va seguito in maniera trasparente. E questa volta chiediamo al ministro, prima che nei prossimi giorni apprendiamo l'esito delle procedure, di pensarci un secondo, di farci il favore a noi, al paese, alla ricerca, alla cultura, all'università, tutti coloro che amano la cultura e la ricerca, di rendere per la prima volta trasparenti, pienamente avanzate ed europee queste procedure. Questo è l'appello che lancia Le Scienze, che lancia il Domenicale del Sole 24 Ore. Ora pubblicità, grazie a Cattaneo e Corbellini. Eccoci tornati qua in studio, tema della puntata: scienza, solo merito e la politica stia lontana dallo spoil system, perché ci sono nomine in arrivo nei prossimi giorni alla testa di 12 istituti apicali del sistema della ricerca italiano, a cominciare dal CNR. Nel frattempo io vi do un'informazione sulla piazza finanziaria: in borsa le cose vanno maluccio, direi decisamente male, sta perdendo 1,6, quindi i mercati consolidano l'impressione del venerdì, giorno successivo all'accordo del Consiglio europeo straordinario per la Grecia. Giovedì tutti a brindare, tutto a posto, invece venerdì avete visto gli spread hanno ripreso a salire dopo che erano scesi ai livelli inferiori a quelli di due settimane prima, siamo arrivati a 270 e la borsa ha iniziato di nuovo a cadere coi bancari. Oggi sembra proprio che l'aria sia la stessa, quindi politica attenta, non pensare che sia finita neanche sui mercati finanziari. Ma torniamo sulla questione da cui siamo partiti, sull'allarme, sulla richiesta di fare tutti una riflessione che chieda alla politica di procedere con queste nomine con criteri diversi, lanciata ieri sul Domenicale da Armando Massarelli. Chiedo a Giampiero Bracchi, nella sua esperienza di professore del Politecnico, che per anni ha partecipato ai comitati e alle strutture apicali del CNR, primo; secondo, anche in quello che fa come presidente dell'AIFI, l'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, quindi avendo piena cognizione di come il mondo della finanza privata, che è chiamato ad assistere livelli decisivi, iniziali del consolidamento delle imprese dopo lo startup, e quindi con un'attenzione al criterio di valutazione effettivo di un piano industriale come di un progetto di ricerca scientifico, abbina le due cose, Giampiero Bracchi. Però quanto siamo davvero ancora indietro rispetto a procedure di nomina che fin dai vertici del mondo scientifico e della ricerca diano un esempio e comprovino che sono solo i criteri di eccellenza e del merito quelli che vengono invece seguiti, rispetto a ciò che ha visto e che vede praticare negli altri paesi? Ma parlando di merito, bisogna domandarsi però quale merito in relazione al ruolo che un presidente o dei membri di consiglio di amministrazione, per esempio di un'organizzazione come il CNR, che ha 8.000 dipendenti e altri 6-7.000 collaboratori esterni, svolge, no? E allora è abbastanza evidente che il merito non può essere solo un merito scientifico. Il presidente del CNR deve essere uno scienziato, perché deve essere riconosciuto dalla comunità scientifica nazionale. Però anche un manager, insomma. Ma però deve gestire un 15.000 persone, 8.000 dipendenti e 7.000 collaboratori nei vari istituti affiancati alle università e così via, e deve anche essere in grado di dare un qualche indirizzo alla ricerca italiana, tenendo presente che il CNR PNRR non ha il compito specifico di fare solo ricerca pura, perché quello ce l'hanno soprattutto il sistema dell'università, ma anche il compito di contribuire a dare un valore economico alla ricerca, il che vuol dire aiutare le imprese e le amministrazioni pubbliche nell'innovazione e anche a far nascere dalla ricerca qualche nuova impresa, qualche start-up, cioè il compito è vasto. Quindi è tanto evidente che, come d'altra parte recita lo stesso statuto del CNR in base alla riforma del 2003, deve essere uno scienziato, ma che però avere una capacità di gestire strutture ed aver avuto esperienze di gestione della ricerca. Poi deve avere tutte le caratteristiche di chi siede a capo di un'organizzazione articolata, per esempio la capacità di motivare le persone, di trascinarle, cioè le normali caratteristiche che si richiedono a chi guida un'organizzazione. Quindi deve essere uno scienziato, ma che deve avere anche le caratteristiche che si pretendono dal presidente di un'organizzazione complicata o anche di un grande ente e così via. Allora è abbastanza chiaro che la scelta non può essere certamente fatta in base al curriculum scientifico, ma in base alle esperienze che i candidati possono dimostrare di avere. Questo ruolo è particolarmente importante ora, in cui nella crisi italiana, nella difficoltà della ricerca industriale italiana, il CNR potrebbe giocare un ruolo nell'aiutare le nostre imprese ad innovare, a passare a nuovi settori a maggiore valore aggiunto. Come scegliere queste persone? Beh, è chiaro che ci può essere una scelta che viene dall'interno, dai ricercatori italiani. Sappiamo però che spesso le scelte che vengono dall'interno hanno carattere abbastanza corporativo e non sempre portano a scegliere le persone che realmente hanno un complesso di caratteristiche. Mi sembra quindi che avere creato un gruppo di persone che in qualche modo cerca di vagliare con questi criteri le diverse candidature possa avere un senso. Certamente questa volta ci lascia molto ruolo al ministro, perché poi la scelta all'interno delle liste preselezionate è proprio del ministro stesso, quindi c'è abbastanza una discrezionalità da questo punto di vista ed è importante che questa discrezionalità venga utilizzata in senso positivo, cioè scegliendo coloro che realmente hanno l'insieme delle caratteristiche e non che hanno semplicemente delle appartenenze. Ci sono anche altri criteri. Noi abbiamo bisogno di una discontinuità nel nostro mondo della ricerca, bisogna ringiovanirlo, bisogna renderlo meno burocratico. Il CNR, come purtroppo quasi tutte le organizzazioni di ricerca italiana negli anni passati, è rimasto abbastanza bloccato in termini di organici. I ricercatori hanno un'età molto avanzata e questo non giova certamente alla loro motivazione, alla loro capacità di fare ricerca. La ricerca si fa a 30 anni, non si fa a 50 anni. Tutto questo quindi richiede anche qualche misura un po' di trasformazione radicale. Sarebbe bello allora che anche nel momento in cui si individuano i membri dei consigli di amministrazione ci fosse una discontinuità, perlomeno anche con l'età. Il mio auspicio è che il presidente di questi grandi enti, in particolare del CNR, non sia un sessantenne, sia una persona che ha al massimo 50 anni, una persona che ha ancora un'esperienza recente di ricerca fatta da lui direttamente, che ha avuto nel frattempo possibilità di avere esperienze e che in definitiva possa avere l'energia, la voglia di cambiare questo sistema, perché ripeto, c'è bisogno di una certa discontinuità per rompere un po' la burocrazia, ma anche diciamo la grande senilità che caratterizza il nostro mondo della ricerca e anche della ricerca applicata e della organizzazione della ricerca. C'è veramente bisogno di una rivoluzione generazionale nel nostro mondo della ricerca e questa tornata di nomine così ampia potrebbe, diciamo, caratterizzare questo. Ecco, questa rivoluzione non viene certamente dall'interno, non viene certamente con la peer review, non viene certamente dai colleghi, è un qualche cosa che deve avvenire in termini un pochino più dirigistici. Allora, il mio auspicio è che nell'ambito di queste nomine, che hanno alcune all'interno di rose preselezionate, hanno alcune caratteristiche verticistiche, perlomeno servono a portare questa discontinuità che da sola non viene. Poi, venendo più specificamente al discorso di se la ricerca italiana genera imprese italiane, questo purtroppo avviene abbastanza poco. Molti dei nostri migliori ricercatori trovano sbocchi di collaborazione industriale non in Italia, ma lo trovano in Europa e negli Stati Uniti, perché questo, per il motivo che chi fa ricerca di punta trova assai poche aziende italiane che possono sfruttare, dato il tipo di produzioni che fanno, le ricerche di punta che vengono fatte, cioè i nostri migliori ricercatori non lavorano normalmente con le aziende italiane. Questo evidentemente non va bene, c'è un discorso anche di orientare un po' la ricerca, in qualche misura perlomeno la ricerca di tipo più tecnologico, no? Verso interessi anche delle aziende italiane, ma ci deve essere la capacità di creare nuove imprese nascendo dalla ricerca. Per fare questo occorrerebbe che anche questi istituti di ricerca, in particolare quelli di ricerca scientifica e tecnologica come il CNR, si orientassero di più a far nascere degli spin-off, a gestire al loro interno degli incubatori di impresa, ad avere dei piccoli fondi seed, seme, che aiutino che i ricercatori che hanno dei prototipi sviluppati, che possono diventare una realtà industriale, a creare attorno ad essi un'impresa. Cioè, in un momento in cui in Italia è vero che nascono tante imprese, ma nascono pochissime imprese a contenuto tecnologico, no? Che il CNR diventi un pochino una fucina di creazione di qualche impresa e poi che aiuti queste imprese a trovare il mercato. Purtroppo le giovani imprese che nascono dalla ricerca molto spesso appassiscono se rimangono in Italia, cioè se non comprendono che il loro mercato non è in Italia, non è neanche in Europa, è normalmente, se fanno information technology, in Nord America, in altri casi ormai anche in Cina. Cioè le imprese devono essere portate sui mercati dove si richiede quello che fanno, cioè lo sviluppo mantenuto qui da noi negli incubatori presso gli istituti del CNR insieme alle università, e poi però avendo lo sviluppo qui avere il marketing laddove sta chi può utilizzare questi risultati della ricerca di queste imprese. Perfetto, io ringrazio il professor Gianpiero Bracchi, come vedete ha portato anche, ha esteso l'attenzione alla contaminazione che ci dovrebbe essere molto più estesa tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa. E ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi trarremo le conclusioni di questa puntata con Armando Massalente. Alcuni di voi dicono sembra troppo tecnica, guardate, è dall'inizio e dal vertice di una scala che si trasmettono i segnali di discontinuità, perché merito, competenza, eccetera, si affermi nel mondo della ricerca, della formazione, ma questo riguarda tutto il settore pubblico, questo criterio. Alcuni poi chiedono, ascoltatori, bisognerebbe preservare l'autonomia, vedo che deve essere un ricercatore del CNR, io ho letto tantissimi documenti del ricercatore del CNR che scambiano la difesa dell'autonomia del CNR per la nomina di un presidente espresso da loro. Io non sto parlando di questo, io credo che quei 15.000 tra dipendenti e competenti siano veramente troppi, e sono stato tra coloro che hanno criticato le modalità con cui viene gestito il CNR. Mi sono beccato anche in un paio di occasioni brutte risposte pubbliche. Oggi non sto parlando di quello, però, e non credo che il merito delle nomine c'entri con un presidente espressione dei ricercatori del CNR, perché questa è una logica conventicolare che non mi piace. Noi stiamo parlando di nomine che devono essere trasparenti per consentire di capire come le cinquine sottoposte al ministro vengono composte, e secondo quale sarà poi la scelta del ministro e con quali criteri. Questo dobbiamo chiedere e questo stiamo facendo, non stiamo invocando l'ennesima corporazione separata nel mondo dell'autogestione del denaro pubblico da parte di chi ci sta dentro, che è la solita maniera che a me irrita molto di chi scambia, no, la ricerca con il posto ai ricercatori dell'università, come abbiamo visto nell'ultima dibattiti sulla riforma Gelmini. Eccoci in studio, traiamo le conclusioni con Armando Massalente, che con il suo appello ieri, Gloria Italiane, che avete trovato sul domenicale del Sole 24 Ore, torno a dire, chiunque non lo leggesse la domenica perde qualcosa, datemi retta, perché è così, ed è la dimostrazione di come un quotidiano economico finanziario abbia nella cultura e nella scienza il suo punto di forza, uno dei suoi più validi punti di forza. Ma siccome è stato lui a prendere le preoccupazioni del mondo della ricerca, lanciate anche da Marco Cattaneo, il direttore delle scienze, a rilanciare nel domenicale, l'impressione che ha è che questo appello, tentativi di portarlo all'attenzione al di fuori della comunità della ricerca e della scienza italiana, ci porteranno a una risposta positiva da parte del ministro oppure no? Bah, non lo so, tu che pensi? Ma io penso che se siamo riusciti a rendere un po' più trasparente questa procedura e questo problema, abbiamo già fatto un enorme passo avanti. Certo, molte cose sono state dette oggi, è importante dirle, ed è importante anche però capire bene che qui in gioco, come già tu dicevi prima, non è tanto la questione dell'autonomia di un ente piuttosto che un altro, ma l'autonomia culturale di un settore enorme che è quello della scienza, perché la scienza è, dal punto di vista della nostra cultura o di altri ambiti della società, quella, come già diceva prima Corbellini, che garantisce meglio dei criteri anche al suo interno per arrivare a qualche cosa che si approssima alla verità. Ora, questa verità riguarda quasi sempre la scienza di base, quindi stiamo molto attenti quando poi la intrecciamo con le applicazioni. Cioè, se noi facessimo una scelta, e qui dobbiamo vigilare, insomma, cioè dobbiamo capire in che senso va la scelta del nuovo presidente. Il presidente che c'è oggi è un'eccezione. Io qui vorrei rispondere proprio agli ascoltatori, cioè quando si preoccupano del parentopoli o cose di questo genere. È chiaro che il sistema italiano è un colabrodo da tutti i punti di vista, ma se c'è un caso in cui possiamo sperare, avevamo potuto sperare, era proprio quello di Maiani, perché c'è stata una procedura assolutamente trasparente, ha presentato un progetto, è stato accettato, c'è stata anche una onestà da parte di quel comitato nel proporre una rosa di candidati limitata e quindi nel ridurre la discrezionalità del ministro, che si poteva limitare semplicemente a dire no, questo non mi va bene, rifate tutto e riportatemi qualcosa di meglio. Ecco, in quel caso lì, tra l'altro, abbiamo un fisico che ha una fama internazionale assolutamente invidiabile, che oggi stesso, tra l'altro, è a Grenoble a vincere un premio internazionale della fisica europea, che è quasi vicino al Nobel. Poi si è detto, ma se non ha un Nobel, ci sono state delle polemiche anche ridicole, tipicamente italiane, ma dicono tanto che vale, ma se non ha neanche un Nobel. No, c'era stata addirittura un'interrogazione parlamentare di questo genere, ma questo fa parte dell'aspetto macchiettistico che noi abbiamo in Italia, proprio perché manca, cioè, una carenza culturale. Allora, se noi riusciamo veramente a far capire che questo è una cosa importante, cioè queste procedure che riguardano la scelta di chi dovrà poi fare la politica della ricerca in Italia, non sarà solo lui, ma che comunque ne darà una forte impostazione, io direi che ci siamo. Allora, almeno questo, e proviamo a seguire le cose. Perché allarmarsi? Perché effettivamente noi non stiamo qui a fare la cinquina, sappiamo bene più o meno quali saranno i nomi, per esempio lo sanno pochi in realtà, però si sanno, ci sono dei nomi che circolano, ma indipendentemente da quello, la mia sfida è: signori, il nome che verrà fuori, o la rosa dei nomi, sarebbe anche meglio che venisse fuori, che venisse discussa, è all'altezza della candidatura precedente oppure no? Anche rispetto alla questione dei rapporti tra scienza di base e scienza applicata, che è importantissima, perché ciò che diceva Bracchi poco fa è assolutamente importante. Però se noi ci sbilanciassimo completamente dalla parte degli interessi, esatto, ecco, che diventa davvero una questione in cui si somma non solo una questione politica, ma anche la questione politica diventa una questione di gestione di interessi materiali molto diretti. Allora stiamoci molto attenti, perché il futuro del paese dipende soprattutto dalla ricerca di base e dalla ricerca della verità, tra virgolette, se lo vogliamo dire in maniera con un termine tagliente, tagliente e pomposa, perché questo se no crea obsolescenza immediata. Esatto. Applichiamo subito le conoscenze che abbiamo. Benissimo, fra 5 anni ci ritroviamo ad essere un paese arretrato. Vecchi, esattamente. Allora, io spero che l'appello finale di Armando Mazzarenti abbia risposto ai molti di voi che oggi sono sembrati un po' troppo. Ma cos'è? Una trasmissione per ricercatori oggi? No, è una trasmissione che chiede al ministro Gelmini, perché è lei l'interlocutore del nostro appello accorato di oggi. Ministro, ci dia retta, renda tutti i singoli passi di questa procedura il più possibile noti e trasparenti. Ci faccia capire, ne va della sua credibilità a fronte dell'intera comunità, non solo dei ricercatori e degli scienziati italiani. Come vede, c'è chi al Sole 24 Ore, diciamo, le scienze, cioè, pensa che questi siano gli impulsi di fondo da dare a un paese per cambiarlo dall'alto. Io poi sono convinto che i paesi cambiano dal basso, quindi vi invito a casa a non pensare che siano cose lontane dai vostri interessi. Anche se non fate ricerca, domani un vostro figlio, formandosi, potrà andare all'università, eccetera eccetera, potrà lui per primo primo trovarsi con strumenti arretrati, perché con la ricerca di base in Italia abbiamo anteposto altri criteri a quelli appunto di valutazioni trasparenti e su cose oggettive. Quindi, signor Ministro Gelmini, ci dia risposta e ci dia retta, perché ne va del suo nome, ma soprattutto della credibilità e dell'efficienza del nostro paese. Appuntamento a domani, linea al Giornale Radio. Grazie a tutti e grazie a Armando Massarenti ancora una volta. 9 in punto.